Benvenuto nella città della cultura, della patria, delle speranze, dei viaggi, del turismo, dell'Arno, delle cascine, delle valle, del ponte vecchio, di Piazza Signoria, di Boboli, della fortezza, di Piazza della Repubblica. Benvenuto nelle strade di Valentino, Gucci, Premier, Gautier, Ferré. Benvenuto nell'antica giostra, benvenuto nelle giubbe rosse, benvenuto a Firenze. Caino, 2008. Domani è